Nel pomeriggio insegnai a un contratto a 6 mesi il rifornimento della linea di assemblaggio. Si trattava della quarantenne pallida che era entrata con il Frank. Giunse alla metà del secondo giorno in azienda, segno evidente che aveva fatto un rapido giro dei reparti e non era piaciuta. Mi danno gli scarti per insegnargli il mio lavoro. Era una creatura fragile e insicura, con marito e parole. Per salvarsi il culo sarebbe stata pronta a tradirmi prima del suono della sirena del pranzo. Almeno 3 volte. Se avesse fatto errori, se si fosse dimostrata lenta e impacciata, avrebbe detto alla caporeparto che le avevo insegnato male, sciogliendosi in un pianto. Scoppiava in lacrime per nulla, era sempre sul limitare di una crisi di panico e il sangue non le ossigenava il cervello, non memorizzava. La temetti da subito. Più sei debole, più sei pericoloso. Si trattava di una completa idiota. Era arrivata nel posto giusto. Finalmente. Un luogo inquinato, osmosi tra un campo di concentramento, un ospedale psichiatrico e la seconda media di un collegio femminile. Prendemmo il carretto delle plastiche in 2 e le feci vedere il giro. Più che una didattica fu uno show, una esibizione della mia forza ottusa e della mia velocità folle. Le dissi di guardare le operazioni e ogni parola sarebbe stata superflua. Per farle coraggio, le dissi che la cosa bella di quello che le stavo insegnando era che anche una scimmia sarebbe stata in grado di farlo. Per demoralizzarla, le dissi che la cosa brutta di quello che le stavo insegnando era che anche una scimmia sarebbe stata in grado di farlo. Non capì la mia ironia greve e continuò a guardarmi smarrita. Il mio occhio schizzava appena una postazione rimaneva scarica. Gliela indicavo con precisione, ma lei rimaneva ferma, in evidente panico. Allora arrivavo io e con movimento brusco le toglievo il pezzo dalle mani e lo riponevo sullo scivolo di alimentazione. Tutto il rumore, tutto l'agitarsi delle persone sembravano paralizzarla. Per me era difficile insegnare e alimentare la linea contemporaneamente e glielo feci pesare, o meglio, alternavo parole dure ad altre di incoraggiamento. La stavo trattando con moderata crudeltà. Dopotutto, le stavo insegnando il mio lavoro, ci stavamo litigando le ultime briciole della civiltà post-fordista. La quarantenne, fragile e insicura, sembrava non avere alcuna dote, così anonima e indefinibile nel carattere. Mi direte indignati che ogni creatura è nella propria unicità un incredibile capolavoro. Forse, però aveva lo stesso difetto originale delle altre donne presenti in reparto. Memorizzava dettagli minori, focalizzava la propria attenzione su presunte manchevolezze del sistema, ma non riusciva a operare miglioramenti sulla propria persona. Ogni lacuna per lei era esterna. Era ammalata di paranoia complottista. E in fondo in questo ci assomigliavamo. Ecco perché l'avevo odiata subito. Nulla le sembrava casuale, tutto era predisposto per danneggiarla. Si sentiva una vittima sacrificale. Tutto il male pareva convergere contro di lei, l'ultima arrivata. Ogni capannello di operaie la ossessionava. Si sentiva giudicata e condannata dal gruppo coeso da anni di convivenza. Presumeva di essere diversa, migliore delle altre. Ma tutta la materia umana in questa fabbrica maledetta viene plasmata e uniformata in blocchi di carne indistinguibile. Nella pausa comune la lasciai da sola con i suoi biscotti secchi, i cui detriti andavano a intaccare denti e gengive, e la sua paura di non farcela, che le seccava la bocca. Mi misi a osservare il lavoro del Frank, che non si era interrotto nemmeno al suono della sirena. Aveva le pale del carrello al massimo dell'estensione per un trasloco dell'ufficio che domina l'officina. È un luogo che in tempi passati era stato teatro di febbrile attività, oggi ingombro di scrivanie e scaffali gonfi di materiale cartaceo, abitato da demoni irritabili. Il Frank stava seguendo le indicazioni di un uomo dei servizi generali, Rimondi. Non è indigeno, ma crede nel pensiero unico che impregna questa zona geografica. Molti lo hanno sottovalutato e hanno pagato caro l'errore. I suoi modi docili avevano tratto in inganno i più stolti, che si erano abbandonati a confidenze. Mi piace pensare che coordini il sistema di controllo aziendale. Sondi gli umori, cataloghi informazioni che i suoi sgherri raccolgono sul campo, rediga dossier, conosca come le sue tasche ogni angolo. Anche lo sgabuzzino più remoto, chiuso a chiave da decenni, per lui non ha segreti. Rimondi si era allontanato per dare disposizioni a un tecnico di una impresa esterna che stava eseguendo lavori di manutenzione dell'impianto di aria compressa. Pensai che in quel momento il Frank fosse vulnerabile e mi rivolsi a lui nonostante molti sacerdoti gravitassero in zona. «Sei già l'uomo di fiducia? Sei il nuovo arredatore?» Sporse la testa dal finestrino che si apriva a scorrimento orizzontale e mi buttò una cicca accesa sul petto. «Cazzo fai? Mi hanno detto che non si può fumare. Non so chi ti paracula, ma ti stacco la testa. Tu non stacchi un cazzo, hai il cervello bruciato male. Sei pazzo, ma non pericoloso. Tu non stacchi un cazzo. Adesso tira il carretto che la sirena è suonata e rimani indietro». In effetti, i ritmi martedì erano infernali e io dovevo anche fare il maestrino, complicandomi la giornata. Ma rimasi fermo anche al suono della sirena e feci un gesto alla donna perché andasse lei a rifornire la linea. Il Frank mi aveva mancato di rispetto ancora una volta, anche se ero stato io a provocarlo. Lo aveva fatto solo dopo aver verificato che non ci fossero testimoni. È vero, non avrei il coraggio di aprirgli la testa con il cutter. La sera prima un canale Mediaset aveva trasmesso un film con Al Pacino. Lui si faceva rispettare nella prima parte della storia. Poi, fatalmente, finiva tutto in vacca. Avevo deciso di non mollarlo. «Vado quando cazzo mi pare. Perché non dai fuoco anche all'ufficio di sopra? O ti hanno insegnato subito a leccare il culo e a tenere la testa bassa?» «Bravo, vecchio, questo è parlare. Comunque sono esentato dal leccare il culo. Marani è cugino di mia madre, primo cugino. Ti hanno raccontato che sono un piromane? Non ti hanno raccontato tutto. Non sono in questa fogna per un po' di carta bruciata». Quando raggiunsi le linee, trovai la donna in lacrime, gli scivoli mezzi affamati. Le operaie all'interno della linea reclamavano materiale. Una postazione si era svuotata, una ragazza aveva iniziato a gridare, le altre non si erano fermate. Impazzii per andare in pari con il rifornimento. Smisi di dare spiegazioni alla donna, rimasi concentrato. Mi ci volle un'ora buona per ristabilire l'ordine in linea. Il Frank mi aveva mancato di rispetto e io non sapevo ancora come giocarmela. Non potevo non reagire rischiando di bruciarmi la fama di pazzo potenzialmente pericoloso che mi ha preservato negli ultimi 4 anni da molte rogne. Aveva fatto il nome del suo protettore. Nessuno prima d'ora lo aveva mai fatto. Marani, detto Dracula, forse il vassallo più indistruttibile che ha mai abitato queste mura. Negli ultimi mesi non fa che percorrere il corridoio degli uffici del Building 1, avanti e indietro, di continuo, con il cellulare saldato all'orecchio, sempre preso da febbrili comunicazioni. Non il peggiore, non il migliore. Uno dei mondi possibili. Mentre seguivo i movimenti e le azioni della mia scolara, Frank saltò dal muletto, facendo una piroetta in volo e atterrò a pochi centimetri dai miei piedi. Aveva di nuovo una cicca tra i denti e i pantaloni a vita incredibilmente bassa. «Senti, Frocetto, la tua metà di culo puoi farla vedere al tuo amichetto, a me non interessa». «Ma allora sei proprio un duro!» Prima che potessi avere una reazione, risalì sul muletto e si avviò verso le bocche di carico dei camion, richiamato dalla Medri, che lo aveva già preso in simpatia e gli aveva affidato anche questa mansione ritenuta piuttosto delicata. Nessuno sembrava aver notato i nostri piccoli scontri, fatti di brevi scazzi, veloci e violenti come acquazzoni in estate. La notizia del giorno era la chiusura di 2 mesi dello stabilimento del nostro cliente per ristrutturazione del layout produttivo e corsi di formazione del personale. Si annunciava cassa integrazione a rotazione e spalmazione su altri reparti a partire già dal giorno seguente. La Ghedini ci aveva radunati a bordo linea e ci aveva avvertiti che avremmo trovato esposti i fogli con le nostre destinazioni. I fogli Excel, con tutti i nostri nomi. C'erano caselline con numeri e lettere e la leggenda in fondo alla pagina per capire il nostro futuro. A me toccavano 2 giorni al reparto in ballo, un lavoro duro, per lo più affidato a cooperative esterne di facchinaggio. Il Frank per poco non mi investì col muletto, frenando con un tempismo da stuntman. «Un sacchetto di lupini, buon uomo! Dovresti averli! È roba da vecchi!» Avevo cercato di ignorarlo. Era difficile. Non so un cazzo di meditazione trascendentale, di sospensione della coscienza. Avrei sempre voluto saperne di più in quel momento. Come sempre, il calore mi avvampò il viso e mi tradì. Sentii il bisogno furioso e impellente di una sniffata di eroina. Non c'era nessuno a parte noi due. In gruppo, durante le pause comuni, continuava a essere rispettoso o almeno dirigeva la sua attenzione su altri soggetti. Non corteggiava nessuna femmina del branco, nessuna lo interessava. O erano vecchie o erano stupide. Doveva tenere un livello qualitativo più alto. Irrideva le operaie con battute di cui non sapevano cogliere la valenza offensiva. Per il resto parlava di patenti ritirate e prodotti tecnologici con un paio di ragazzi del magazzino. «Allora? I lupini sottovuoto? Ho un avvitatore elettrico da piantarti nella pancia. Ma se stai sul muletto il filo non arriva. Dovresti scendere e avvicinarti un paio di metri». «Grande vecchio! Lo sapevo che eri un tipo giusto, uno del tempo dell'eroina. Adesso sei qua dentro buono, buono. Sembri un cagnone malato alla catena, un buon cagnone. Adesso a cuccia!» La Ghedini finalmente colse qualcosa. Speravo che qualche figura istituzionale ponesse fine a questi duelli. Doveva aver intuito che non parlavamo amichevolmente quando avevo impugnato l'avvitatore. Ci guardava dal tavolino tondo su cui compilava le carte della produzione. Ci venne incontro. Mi chiese se volevo il cambio e mandò il Frank nel piazzale. Il camion di un fornitore avrebbe già dovuto essere in scarico e non se ne aveva notizia. Si rischiava un fermo linea per una guarnitura mancante. Avevano quantificato 2 ore di autonomia. Nonostante l'eventualità che si profilava, le ragazze in linea non rallentavano il ritmo di lavoro. Non capivano che potevano rilassarsi. La competizione continuava. Sembravano ipnotizzate. «Tutto a posto?» mi chiese la Ghedini, mentre afferrava il mio carretto per darmi il cambio. Non era una pratica usuale. La caporeparto non è tenuta a sostituire gli operai. «Tutto a posto?» le dissi e mi allontanai. In cesso fui colto da una scarica di colite molto violenta. Da alcuni mesi vado di corpo a intervalli irregolari, ma faccio solo robaccia liquida e puzzolente oltre ogni limite. Striature di filamenti gelatinosi quasi viola. Tirai immediatamente l'acqua, ma non potei aprire la finestra del cesso. Fuori fumavano. All'inizio pensavo fosse colpa del taglio della pessima roba che circolava in città. L'eroina stava tornando di gran moda e la qualità stava rapidamente peggiorando. Oggi non sono più così sicuro delle cause dei miei malesseri e non saprei datare con certezza l'inizio dei disturbi. Per non avere problemi di dipendenza, dal 2006 assumo eroina solo per 3 giorni al centro della settimana operaia. Martedì, mercoledì e giovedì. I tipi come il Frank fanno esattamente il contrario. Assumono droghe euforizzanti, ma sono nel fine settimana. La domenica è dedicata alla fase di decompressione, al recupero. Per la settimana lavorativa o di studio si tengono lucidi e stronzi. Le forze dell'ordine li lasciano stare. Non intervengono nei loro piccoli traffici innocui. Questi ragazzi sono ben integrati nel tessuto sociale, sfogano modeste esigenze di trasgressione dando fuoco a qualche registro scolastico. Non saranno mai delinquenti comuni, non oseranno mai sfidare apertamente il sistema, ne condividono le regole. Non si interesseranno mai di politica. Si limiteranno a ipotizzare roghi nei campi rom dal balcone di un bar attrezzato per gli aperitivi. Vorrei, per gente come il Frank, una morte lentissima e molto dolorosa. Mi arrivò alle spalle. Dopo che ho defecato, la sudorazione aumenta e sono scosso da colpi di tosse secca. Mi rimanevano un paio di minuti, poi dovevo raggiungere il mio carretto. Stavo armeggiando nervosamente nelle tasche del giubbotto e nell'armadietto. Mi capita spesso di perdere di vista il telefonino, la chiave della macchinetta del caffè. La sua voce mi arrivò come una frustrata. «Mio padre ti conosce. Ha qualche anno di più, ma si ricorda di te». «Non conosco nessuno in questo paese di merda. Non rompere i coglioni, devo andare». «Ti dico che si ricorda di te benissimo. Sa tutto di te. Mi ha raccontato un sacco di cose. Dice che alle superiori eri il più intelligente della scuola. Così almeno la pensavano certi professori. Ma non ti abbassavi ad aprire i libri di matematica. Troppo volgare per un tipo come te». Poi a metà anno ti sei ammalato e sei sparito. So anche che malattia era. So anche chi la prendeva. E come. Era una scuola di rincoglioniti, non avrebbero dovuto farli riprodurre. Quel rincoglionito di mio padre è architetto. È nel gruppo consigliare di maggioranza, assessore all'urbanistica. Decide dove costruire e se costruire. Non so se ha idea della responsabilità e del potere. Questo è un paese molto ricco, un'isola dove le cazzate del comunismo non hanno mai attaccato. Non so se ha idea dei privilegi connessi all'attività di mio padre. Sì che ne ha idea. Dimenticavo che sei una specie di genio. Saprai anche che mi hanno allungato il contratto mentre tu andrai filato in cassa integrazione. Fare il mulettista è comodo, ti lascia un sacco di tempo libero. Ma non ti preoccupare, non lo sto sprecando. Mi guardo attorno e penso a qualcosa da fare. Adesso è meglio che vai. La capa ci sta guardando male, anzi, sta guardando male solo te.